Sì, l'obiettivo della mostra è proprio questo, rendere scalabile un mito per fare in modo che chiunque visiti la mostra possa dialogare con le domande che la testimonianza del CE pone. Poi ognuno trova le sue risposte, ma i miti diventano degli specie di monoliti che si mettono sulle magliette, ma non sono scalabili, rimangono lì. Invece se si parla di Che Guevara, si entra nel dettaglio, questo spero che questa mostra, e si incontra anche l'uomo, con le sue difficoltà, anche con le sue fragilità, ecco che diventa una roccia scalabile. Ah, io come lui, ci sono anch'io, anche lui ha dovuto scegliere. È un dialogo che ci mette dentro al flusso della storia. Noi immaginiamo che le nostre esistenze siano in un eterno presente dove incontriamo il presente con i suoi contrasti luccichini, ma abbiamo dietro i nostri avi, quelli che sono venuti prima, che hanno raccontato le storie, le loro domande, le loro idee. Ricordiamoci che siamo dentro al flusso dell'avventura umana e spero che questa mostra ricordi ai giovani, per sviluppare un buono spirito critico e non farsi prendere da questo gioco degli specchi del presente, che siamo dentro a un'avventura umana meravigliosa e che noi siamo parte di questo. È dedicata a Camillo questa mostra. Sì, a mio caro amico Camillo, un uomo schivo, timido, ma come diceva Aleida, ma intenso, che ha dedicato la vita a divulgare la figura del padre. E con Camillo ho avuto un bellissimo percorso, anche di contrasti, mi ricordo le discussioni per chiamare la mostra Tui Todos, io ho trovato la poesia e lui dice, ma sei sicuro, la chiamiamo Tui Todos, ma è un po' intima, così. Quindi abbiamo discusso tanto, parlato tanto, ma è stato lui veramente che ha voluto questa mostra, grazie a lui se questa mostra c'è, quindi ancora grazie a lui.